Crisi, Napolitano convoca i presidenti delle Camere, opposizioni pronte a chiudere la finanziaria entro novembre. Ascolti record per Vieni via con me, coda polemica, il ministro Maroni da Saviano accuse infamanti. Unione Europea a rischio sopravvivenza, l'allarme della presidente Von Rompuy. Maltempo torna, la paura in Veneto. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Questi nostri titoli partendo ovviamente dalla politica. Ieri le dimissioni dei Finiani, oggi i presidenti delle Camere saliranno al Colle a colloquio con Napolitano. Partiamo allora da qui in diretta con Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, buongiorno Anna Rita, ormai è certo la crisi è alle porte, dopo il vertice di Arcore di ieri sera gli spazi si restringono all'ipotesi di un Berlusconi bis abbandonata anche da PDL e Lega. Nessuna crisi pilotata dunque, ma la fiducia prima al Senato poi alla Camera, e stamattina il capogruppo della Lega alla Camera Marco Reguzzoni precisa: non c'è nessuna alternativa a Berlusconi, è l'unico che può portare avanti le riforme. Ma Future Libertà reagisce male all'out-out di ieri, sentiamo Benedetto Della Vedova. La proposta che noi abbiamo fatto era quella di rilanciare questo governo in modo da superare le difficoltà evidenti a tutti che questo governo ha. Ci si risponde no, va tutto bene, se non ci state andiamo al voto. Noi a questa partita non ci stiamo più, adesso la responsabilità è tutta di Berlusconi. Per il PD Berlusconi e Bossi devono formalizzare la crisi, Nicola Latorre. Bisogna prendere atto subito della crisi e andare in Parlamento con le dimissioni per aprire una discussione su quello che bisogna fare. In Parlamento si verificheranno se ci sono le condizioni per andare avanti con un nuovo governo per tornare a votare. E oggi pomeriggio sono convocati al Quirinale il presidente della Camera Gianfranco Fini e quello del Senato Renato Schifani. Non è ancora l'apertura formale della crisi, ma sicuramente una considerazione su tempi e modi di approvazione della finanziaria. E oggi è intervenuto anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Spero che le perturbazioni politiche non aumentino, ha detto. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta, lo avete sentito, adesso è tutto nelle mani di Napolitano, un ruolo delicatissimo il suo. Napolitano ha parlato proprio poco fa inaugurando la restaurata biblioteca del Quirinale. Spero di non essere costretto, ha detto, da qui al 2013 a rifugiarmi in questa biblioteca come in un'oasi rispetto ad un mondo politico e istituzionale perennemente perturbato. Parole importanti, parole anche di preoccupazione che commentiamo insieme a Dino Pesole del Sole 24 Ore. Dino. Sì, parole preoccupate, in realtà in questo momento al Quirinale c'è una certa preoccupazione soprattutto per l'esito della legge finanziaria o legge di stabilità come si chiama adesso, perché è evidente che una crisi di governo aperta ora aprirebbe degli scenari inquietanti, non tanto per l'effetto in sé, perché poi magari un ritardo non sarebbe così drammatico, quanto per il fatto che proprio in questo momento ci sono, come sappiamo, delle nuove tensioni sui debiti sovrani, dunque sui mercati internazionali, e noi dobbiamo collocare importanti quote del debito pubblico e questo potrebbe creare dei problemi. Quindi Napolitano è preoccupato soprattutto di questo, è esattamente quello che dirà nel pomeriggio ai presidenti di Camera e Senato, cioè una certezza sull'approvazione della legge di stabilità, poi si aprirà la crisi e gli scenari successivi. Quindi è ancora una fase sicuramente molto delicata quella di Napolitano, ma dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo per capire che cosa può accadere secondo te? Sì, lo scenario Napolitano ha richiamato quello del 94, esattamente quando il governo Berlusconi fu messo in minoranza e la Lega lasciò il governo, ma Scalfaro impose d'accordo con i presidenti di allora di Camera e Senato, Scognamino e Pivetti, impose l'approvazione della legge finanziaria. Infatti la legge finanziaria venne approvata il 20 di dicembre e il giorno dopo, due giorni dopo, il governo si dimise. Quindi mettere a riparo i conti pubblici dalle turbulenze, dalle gravi turbulenze della situazione politica interna. Questa è la preoccupazione prevalente adesso. Gli scenari successivi, e quelli li vedremo, perché evidentemente il capo dello Stato, quando si aprirà formalmente la crisi, dovrà, anche Costituzione e prassi alla mano, provare a sondare se ci sono possibilità per evitare lo scioglimento anticipato delle Camere. E se questo non sarà, ovviamente saremo chiamati nuovamente al voto. Grazie a Dino Pesole del Sole 24 Ore per questa analisi. Lo avete sentito, dunque è prioritaria la legge di stabilità, della quale si discute a Montecitorio, e ci sono delle novità di oggi. In diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è arrivata in aula dunque la legge di stabilità, sono in tutto 372 gli emendamenti presentati, di questi la maggior parte sono del Partito Democratico, che però ha annunciato che potrebbe ritirare le proposte di modifica nel caso in cui il governo decida di non porre la questione di fiducia sul provvedimento. Ma la notizia di questa mattina è proprio la promessa di non belligeranza dell'intera opposizione sulla finanziaria, l'impegno di fatto di PD, UDC, Italia dei Valori ed API a chiudere la partita entro novembre per poi dare spazio al confronto sulla crisi politica. Ma su questo ascoltiamo il capogruppo del PD alla Camera, Franceschini. Naturalmente voteremo contro. Insieme agli altri gruppi di opposizione abbiamo dato la nostra disponibilità ad accorciare i tempi di approvazione, garantendo che la legge di stabilità venga definitivamente approvata entro il 30 novembre. Questo consentirà immediatamente dopo di far scendere il sipario sul governo Berlusconi. E sul fronte dei contenuti, alla finanziaria si lavora sul cosiddetto ecobonus. Spero che il governo possa dare una soluzione positiva alla questione, ha detto il relatore alla legge di stabilità, Marco Milanese. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. Ascolti record anche per la seconda puntata di Vieni via con me, di e con Fabio Fazio e Roberto Saviano, con ospiti molto contestati, Bersani e Fini, che hanno elencato ieri i valori della sinistra e della destra. C'era anche Cristiano De André, che state sentendo in sottofondo. La puntata è stata vista da 9 milioni e 31 mila telespettatori, pari al 30,21% di share, e l'ascolto record assoluto per Rai 3. La trasmissione ha registrato quasi 20 milioni di contatti, tanti gli ospiti anche ieri sera, e da Saviano l'affondo sull'infiltrazione della 'ndrangheta in Lombardia. La Lombardia è la regione col più alto tasso di investimento criminale d'Europa. Milano è la capitale, in questo senso, degli investimenti criminali. Lombarda è l'economia in cui si infiltrano, lombarda è la sanità in cui si infiltrano, lombarda è la politica in cui si infiltrano. L'organizzazione, come al sud, cerca il potere della politica e al nord interloquisce con la Lega. E queste parole hanno suscitato la reazione del ministro Maroni. Come ministro e ancora di più come leghista mi sento offeso e indignato, ha detto il ministro dell'Interno. Ho chiesto al CDA della RAI il diritto di replica, ha aggiunto Maroni. Vorrei una faccia a faccia con Saviano per vedere se ha il coraggio di dire quelle cose guardandomi negli occhi. E intanto sul nuovo successo di Vieni in via con me, il nostro Dario Ceccarelli ha intervistato Michele Serra, tra gli autori del programma. Gli ha chiesto proprio come è stato vissuto questo nuovo successo. Abbiamo vissuto intanto con molta fatica, perché già la televisione è stressante in sé, perché c'è questa ossessione un po' paranoica degli ascolti, quindi l'1% in più, l'1% in meno cambiano l'umore. In più c'erano moltissimi tensioni, diciamo anche extra televisive, no? Tensioni politiche, la persona di Roberto Saviano, che è un valore che va tutelato, che va in qualche modo protetto, insomma, quindi c'è un grandissimo sollievo e anche grande contentezza, ovviamente, no? Perché evidentemente la trasmissione è riuscita a intercettare, secondo me, un cambiamento di umore del paese, no? Può darsi che veramente sia finita l'epoca della leggerezza a tutti i costi e del cinismo. Io credo che sia una trasmissione anticinica, questo è il suo merito fondamentale. Può piacere o non piacere, però l'impostazione è anticinica e evidentemente anche il paese in questo momento ne ha le scatole piene del cinismo. So che avete festeggiato in un modo particolare, sentivo prima dei clacson, schiamazzi. No, sono piccole debolezze interne degli autori della trasmissione. No, siccome ci sono molti meridionali, sai, sono focosi tra gli autori, e quindi è stato deciso di fare un giro dell'isolato in macchina con una bandiera tricolore, ma insomma, sono ragazzi, bisogna capirli. La pagina economica, l'Eurozona e l'Unione Europea nel suo complesso non sopravvivranno se i problemi di bilancio attuali di alcuni paesi non saranno risolti. È l'allarme lanciato dalla Presidente Permanente dell'Unione Europea, Von Rompuy, prima dell'Eurogruppo di oggi e dell'Ecofin di domani. Preoccupano in particolare Dublino e Lisbona. Balla sull'orlo del precipizio l'Eurozona nel giorno in cui Irlanda, Portogallo e Grecia hanno visto riprendere quota l'ipotesi di un intervento del Fondo di Salvataggio Europeo. Ieri sera il premier irlandese Brian Cowen ha smentito che Dublino stia chiedendo aiuto all'Europa o al Fondo Monetario. It is fiction because, ipotesi smentita come pura fiction anche dal ministro della giustizia Dermot Ahern, secondo il quale il budget quadriennale sarà reso noto la prossima settimana. Nessuno nega però che i contatti con Bruxelles ci siano, al punto che si ipotizza un possibile pacchetto di salvataggio pari a 70 miliardi, ma la crisi si propaga a macchia d'olio, andando a colpire pure il Portogallo, dove il ministro delle finanze Teixeira dos Santos ha ammesso che il rischio che Lisbona debba ricorrere agli aiuti internazionali è alto. Per dos Santos, Portogallo, Irlanda e Grecia sono al centro di un contagio che si sta diffondendo a grande velocità, e proprio la Grecia ieri ha visto salire il deficit 2009 al 15,4%, con un nuovo buco nelle finanze pari a 4 miliardi di dollari che dovranno essere recuperati attraverso ulteriori misure di austerità. Il premier Papandreou ha però escluso, bollandola come catastrofe, l'ipotesi di ristrutturazione del debito. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia ad ottobre l'inflazione è tornata a salire, i prezzi al consumo sono aumentati dell'1,7% su base annua, in salita rispetto all'1,6% registrato a settembre e ad agosto. Su base mensile l'inflazione ha segnato un più 0,2%. Ma c'è un'Italia che ha già rialzato la testa dopo la crisi. Sentiamo le storie delle aziende uscite dal tunnel. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Il fatturato del 2009 ha avuto un calo rispetto al 2008 del 5%. Per il 2010 chiuderemo sicuramente con un più 7%. A fornire le cifre Gianluigi Viscardi, presidente di Cosberg, azienda bergamasca con 87 dipendenti che produce macchine e moduli meccatronici per l'automazione dei processi di montaggio. Altro dato positivo, nel 2010 gli ordini sono cresciuti di ben il 50%. Come si è arrivati a tanto? Ancora Viscardi. Nel 2009, nel momento che noi avevamo questo calo, abbiamo cambiato il sistema di produrre. Abbiamo investito molto sulla conoscenza globale per accrescere il valore del capitale umano e di conseguenza consolidare ed accrescere il know-how, che è il vero valore della nostra azienda. Abbiamo investito nei sistemi informatici all'avanguardia, controlli dei costi e della gestione, e abbiamo focalizzato molto sull'export. Prima del 2009 esportavamo circa il 35%, ora siamo all'88%. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Crisi napoletano, spero che le perturbazioni politiche non aumentino, opposizioni pronte a chiudere la finanziaria entro novembre. Ascolti record per Viani in Via con me, coda polemica il ministro Maroni da Saviano, accuse infamanti. Unione Europea a rischio sopravvivenza, l'allarme del presidente Van Rompuy. Maxi operazione tra Serbia e Lombardia, 100 arrestati per un traffico di droga. Ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Partiamo proprio da qui, da questa maxi operazione antidroga tra Milano, tra la Lombardia e la Serbia. Lo facciamo in diretta con Giovanni Capuano, che ci racconta tutto. Giovanni. Sì, buongiorno. Un'inchiesta lunga più di 3 anni che si è sviluppata tra Sud America, Italia e paesi balcanici, che ha consentito di smantellare una vasta rete di organizzazioni che erano in grado di riversare fino a 3.000 kg di cocaina purissima al mese sul mercato del nord Italia, in particolare su quello di Milano. 105 le ordinanze di custodia cautelare firmate su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Al momento ne risultano eseguite 79, di cui 22 in paesi esteri tra Serbia, Slovenia, Montenegro, Ungheria e Svizzera. E proprio da un fallito attentato a un boss montenegrino nel dicembre 2006 a Zurigo è partita l'inchiesta. La cocaina veniva acquistata in Sud America e trasportata in Europa utilizzando navi da crociera. Un'indagine con risultati importantissimi, ha detto pochi minuti fa Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia, che ha soprattutto però sottolineato come l'inchiesta abbia consentito di tracciare una mappa inedita del mercato della cocaina nel nord Italia. Sentiamolo. Avevamo pensato che l'esclusivismo fosse dell''ndrangheta calabrese, ci troviamo invece questa organizzazione che opera in una maniera assolutamente nuova, certamente con delle cellule composte di pochi uomini, per diminuire i rischi e le responsabilità eventuali del resto dell'organizzazione. Il Maxi Blitz è ancora in corso, sono impegnati centinaia di uomini, condotto anche in collaborazione con le forze di polizia di diversi paesi. Da segnalare che sinora è sfuggito all'arresto Darko Saric, montenegrino, considerato il capo dell'organizzazione. Dalla questura di Milano è tutto, linea allo studio. Grazie Giovanni Capuano, e noi ci spostiamo a Vicenza perché è tornato il maltempo in Veneto ed è tornato soprattutto a fare paura. In diretta Paolo Usinabia. Sì, temperature alte, pioggia insistente nella zona premontana e Vicenza città, e Vicenza torna a tremare. Il livello del Bacchiglione, pensate, è cresciuto nelle ultime ore di 3 metri e siamo a pochi centimetri dal livello di allarme. Sono già state chiuse 2 scuole in città, Protezione Civile e Comune stanno monitorando gli argini e è già pronta la distribuzione di sacchi di sabbia. Non solo Vicenza trema, ma anche le zone già alluvionate come Caldogno, dove stanno allertando la popolazione con i megafoni e stanno sgomberando alcune case. L'argine del fiume Timonchio ha già rotto dal lato opposto rispetto all'altra volta e sono a rischio delle frazioni delle case del comune di Dueville e di Caldogno. E per ora da Vicenza è tutto. Grazie a Paolo Usinabia. E si è conclusa ieri sera sotto una fredda pioggia la protesta degli immigrati che da 16 giorni si erano arrampicati su una gru di un cantiere della metropolitana in via San Faustino a Brescia per la mancata concessione dei permessi di soggiorno. I 4 sono scesi poco prima delle 21 al termine di una giornata di estenuanti trattative. A questa vicenda era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Immigrati sulla gru per il permesso di soggiorno, è una protesta che condividete? No per il 62% degli ascoltatori di Radio 24, sì per il 38%. Alessandro Milan ha intervistato l'avvocato Manlio Vicini. Hanno ottenuto col loro gesto di dare visibilità a un problema reale che aspetta ancora delle risposte. E poi hanno ottenuto sostanzialmente delle garanzie riguardo alla loro posizione personale, e cioè di non essere soggetti dopo la loro discesa a provvedimenti di espulsione o di trattenimenti in centri di identificazione ed espulsione. Questo dopo aver analizzato la loro situazione giuridica e quindi nel pieno rispetto della normativa vigente. Cioè traduciamo, avranno un permesso di soggiorno? Ma loro sono in condizione di, uno addirittura è in condizione di vedersi accolta la domanda di regolarizzazione, e altri 3 potranno avere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia in relazione alla loro posizione processuale, perché sono sottoposti a indagini per il reato di occupazione di suolo pubblico. Restiamo a Brescia. State all'interno della piazza. 28 maggio 1974, una bomba esplode in Piazza della Loggia a Brescia. 36 anni dopo oggi si attende la sentenza. La Corte d'Assise di Brescia, chiamata a giudicare per concorso in strage 5 imputati, ha raggiunto il verdetto. La lettura della sentenza è prevista per il pomeriggio. Sono una peccatrice, questa è la confessione di Sakineh, la donna condannata alla lapidazione per adulterio in Iran, che la televisione di Teheran è tornata a mostrare in una trasmissione sulla sua vicenda andata in onda ieri a tarda sera. Sulla sua sorte ancora incertezza, questo mentre in Italia si discute di un farmaco che manca da mesi nelle carceri americane per la pena di morte con iniezione letale. Sarebbe prodotto nel nostro paese, così perlomeno accusa un'organizzazione britannica, ma da Milano negano. Nega tutto Giuseppe Riva, amministratore delegato in Italia per Ospiria, multinazionale con base in America per la produzione di farmaci. Dalla milanesissima Allentate, paese alle porte del capoluogo lombardo, da gennaio dovrebbero partire, accusa Reprivo, organizzazione umanitaria britannica che si batte contro la pena capitale, le dosi di sodium tiopental destinate ai bracci della morte degli States. Il sodium tiopental è un anestetico di uso ospedaliero, usato però anche per le iniezioni letali. Da mesi le esecuzioni in America sono bloccate perché negli stati che ne fanno uso si sono esaurite le dosi. Ora la multinazionale americana avrebbe incaricato la consorella italiana di produrlo e poi esportarlo. Tutto falso, ribattono da Milano. Nessuno è autorizzato a parlare ad un microfono, ma spiegano. Ospiria non supporta l'uso per la pena capitale. Già la primavera scorsa abbiamo preso contatti con gli istituti di correzione negli Stati Uniti per rendere nota la nostra posizione. E comunque, aggiungono allentate, per ora di questo farmaco qui non se ne produce. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo nel Regno Unito, da dove arriva la notizia del fidanzamento ufficiale di William e Kate. Si sposeranno a Londra il prossimo anno, nel 30° anniversario del matrimonio dei genitori di lui. Carlo e Diana si sposarono, lo ricorderete, il 29 luglio dell'81 nella cattedrale di St. Paul. Investire in cultura, perché? È il titolo di un convegno che si terrà oggi pomeriggio alla Fondazione Bracco a Milano in occasione della nona edizione della Settimana della Cultura d'Impresa promossa da Confindustria. E sono molte le fondazioni d'impresa che scelgono di investire in attività culturali, anche per contribuire alla crescita etica ed economica della società. Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco e vicepresidente di Confindustria, al microfono di Adriana Fracchia. Noi oggi facciamo questo convegno e parliamo di cultura, anche se, e lo vogliamo dire, il nostro paese come investimenti in cultura è molto indietro. Noi investiamo, credo, 1,8 miliardi di euro, ma che è solo un terzo dell'investimento in cultura degli altri paesi importanti dell'Unione Europea. Quindi c'è un grande gap da colmare. E non dimentichiamo che la cultura è uno degli asset su cui l'Italia può basare la sua crescita e la sua credibilità. Secondo me le imprese che portano avanti il loro discorso di cultura, di investimento in cultura, sono anche imprese che portano nel mondo la migliore espressione dell'Italia. Quindi è importante investire in cultura. Importante ed è anche utile, perché, come dico, c'è questa possibilità di ritorno sulla contabilità dell'azienda e, diciamo, sulla percezione aziendale. Questo mi sembra molto importante. Una notizia di calcio per chiudere: il Cagliari ha annunciato per stasera alle 18:45 la presentazione ufficiale del nuovo allenatore, Roberto Donadoni, l'ex CT della Nazionale, atteso nel primo pomeriggio a Cagliari, dove incontrerà il presidente della squadra. Era l'ultima notizia di questa edizione, condotta e curata da Anna Rita D'Ambrosio. Grazie regia Fabio Cantadori, vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce. Il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.